Donato, possiamo cominciare? Allora, riprendiamo e finiamo con questi orientamenti teologici nel CEIAL. Abbiamo l'onore di avere qui il professor Mario Agassi, e appunto di questo centro, e Don Luigi gli farà delle domande. Dunque, io ringrazio molto la presenza attiva, modesta, umile del CEIAL. Hanno tenuto conto della mia malattia, non ho mai avuto il bisogno di andare proprio a Rida loro, sono venuti loro da me. E veramente hanno accettato volentieri di essere attivi nascostamente di questo nostro convegno per la bibliografia, per il suggerimento di nomi, eccetera. Qui abbiamo l'onore di avere Don Mario Agassi, che lavora nell'informazione, responsabile di tutto, non so dirti. Lui mi ha già preparato un testo di 32 pagine, già pronto, abbiamo tutto del convegno per gli atti, manca solo Rizzi, quindi speriamo. E in questo testo, che io non leggo, mi ha dato delle piste teologiche e pastorali che sono alla base della loro attività di CEIAL, mediazione tra l'America Latina e la Chiesa italiana, che è un decalogo. Leggo solo i 10 titoli. Piste teologiche. Primo, dalle missioni alla missione. Secondo, la Chiesa locale o particolare si riscopre come Chiesa e come soggetto di missione. Terzo, dal colonialismo religioso all'impegno per la crescita di chiese locali incarnate nelle varie culture. Quarto, dall'aiuto allo scambio. Quinto, annunciare Gesù Cristo e il suo regno. Sesto, l'annuncio di Cristo e il suo regno implica l'impegno per la liberazione anche storica. Settimo, la parola di Dio fonte di vita. Ottavo, l'opzione preferenziale per i poveri. Nono, le comunità ecclesiali di base. Decimo, una nuova spiritualità. Dunque, io ho pregato di non riferirsi il suo testo che noi leggeremo e a livello di intervista di rispondere a delle mie domande. Allora, la prima domanda che vi faccio è questa. Chiedo al CEIAL, è in lui al CEIAL, se ci sono stati o ci sono attualmente ancora momenti prevalentemente teologici, specificamente di riflessione teologica, congressi, atti, questioni, quaderni, eccetera, o altri sussidi, che dimostrano che il CEIAL come tale non soltanto fa la spola tra esperienze, ma anche tra riflessioni in sue esperienze, e chiedo se in queste eventuali attività di riflessione teologica c'è dentro anche la partecipazione del polo non sud, dei fratelli dell'America Latina. Il servizio del CEIAL è un servizio che parte fondamentalmente nella preoccupazione di stabilire un rapporto profondo e vitale tra la realtà latinoamericana e la realtà italiana, e quindi a tutti i livelli. Non soltanto allora da un punto di vista di cooperazione missionaria, nel senso fattuale, operativo, pastorale, ma anche a livello di scambio e quindi di riflessione. E la riflessione però è una riflessione molto legata alla vita, e il tipo di elaborazione anche teologica che ne viene fuori non è una elaborazione teologica nostra, no? Ma è un tentativo di mettersi in ascolto di quello che sta avvenendo. E questo lo facciamo anzitutto perché nel corso di questi 30 anni si è andato accumulando un centro di documentazione che raccoglie quasi tutta la pubblicazione e le pubblicazioni più significative che vengono dall'America Latina, soprattutto a livello di riviste e di documenti. Quelli che sono quelle piccole pubblicazioni anche informali che eventualmente le comunità utilizzano per il loro lavoro. Non solo, ma nei corsi di preparazione e nei corsi incontri di accompagnamento c'è costantemente la presenza di teologi e pastoralisti latinoamericani che indubbiamente ci aiutano e ci provocano a ripensare continuamente il nostro modo di rapportarsi. Terzo, pubblichiamo anche una piccola rivista, Servizio Informazione America Latina, SIAL, ecco, in cui l'attenzione alla realtà sociale, politica e economica, ma sempre in chiave fortemente ecclesiale, quindi direi teologica. E quarto, di tanto in tanto si promuovono delle iniziative, sono stati fatti dei convegni favorendo incontri tra teologi latinoamericani, teologi italiani, non so, sulla catechesi, sulla lettura pastorale popolare della Bibbia e sulla religiosità popolare, che indubbiamente hanno arricchito molto. Da un po' di tempo puntiamo di più, anziché farci promotori in prima persona, a renderci presenti in quelle iniziative che nella Chiesa italiana, ecco, perché grazie a Dio quello che poteva essere 30 anni fa qualcosa di un po' pionieristico, oggi sta diventando un fatto ormai acquisito, ecco, nella Chiesa italiana. Quindi direi che a livello di elaborazione mi sembra che... Ti ringrazio, bene. Tu hai fatto un elenco dei 10 aspetti che qualificherebbero l'impostazione teologica, la riflessione teologica. Una prima impressione mia è che sono generici, cioè meglio, sono di tutta la Chiesa o sono prevalentemente della Chiesa dell'America Latina. Tu puoi dire se questi 10 contengono qualche punto qualificante che voi sentite, sviluppate di più, oppure sono tutti un debito pagato all'incontro già conosciuto, riconosciuto con la teologia dell'America Latina? Sì, mi sembra che da questa esperienza di cooperazione ecclesiale emergono queste dimensioni che non dico che siano tutte originali dell'America Latina, ma se non altro che l'America Latina ha preso abbastanza sul serio e ha stimolato, ci sembra, anche la Chiesa italiana ad approfondirle. Ecco, tra questi, se dovessi ecco, fare una sottolineatura, direi che è il numero 8, l'opzione preferenziale per i poveri. Ecco. Cioè, mi pare che sia qui che la esperienza ecclesiale latinoamericana, ecco, si è posta, indubbiamente preparata dai domenicani, indubbiamente, no? Ecco. Si è posta come elemento notevole di stimolo, ecco. Proprio perché il prete italiano, la religiosa italiana, il laico italiano, il religioso italiano che si è coinvolto fino in fondo nel cammino delle comunità latinoamericane in situazioni di povertà, di emarginazione, indubbiamente lo ha fatto con quella carica di compassione, no? Di amore di cui si parlava in questi giorni, e da lì pian piano ha maturato come la scelta preferenziale per i poveri non è una opzione nel senso di opzionale, ma in fondo l'essere fedeli a Cristo, ecco, che è venuto ad annunciare la buona novella ai poveri. Mi pare che sia da lì un po' che il cuore, ecco, di tutta la riflessione, mi sembra teologica, ecco, anche perché una cosa interessante è che la scelta dei poveri è anche un modo di capire il mistero di Dio, no? Cioè Dio ci si manifesta come colui che predilige i poveri, e quindi in questo coinvolgimento si capisce forse un po' meglio, ecco, quello che è il volto di questo Dio che è padre e che è il difensore, il vendicatore, no? Dice la Bibbia, dei poveri. Grazie, io ho letto un po' tutto il contenuto tuo quando me l'avevi mandato prima della mia operazione di occhi. La mia impressione è questa, che hai fatto una lettura, una proposizione molto equilibrata e serena. La mia domanda è questa: come collochi questo discorso tuo dentro l'attuale situazione un po' conflittuale, dialettica dell'America Latina? Cioè, ci sono posizioni che se non fosse andato via Don Padre avrebbe dato respiro antipoffa entro questo. Cioè, dentro l'America Latina non c'è quella pacifica presentazione che tu proponi. Come collocheresti? È un atteggiamento prudente tuo, oppure ormai un'acquisizione di un cammino che bisogna fare di superamento delle dialettiche e diventare più pacifici? Beh, io direi che a una lettura eventualmente attenta, no, dalle note, soprattutto se note. Si legge l'insieme di quello che qui è riportato, no? Soprattutto se si legge il numero 10, una nuova spiritualità, si parla molto di martirio, ecco. Sì. E il martirio ha la sua radice non soltanto nei malvagi anticristiani, ma ha tra i suoi operatori, è stato ricordato anche qui che i primi martiri sono stati fatti dagli spagnoli credenti, insomma. Ebbene, ha tra i suoi artefici anche quelle dialettiche o quelle polemiche a volte intraecclesiale che alimentano e scatenano verso altri fratelli di fede la persecuzione. Quindi questo penso che sia importante. Ecco, poi mi sembra che una lettura, una rilettura anche di questi 30 anni, ecco, mi pare che debba essere un invito alla serenità e alla speranza, ecco, perché io mi sono accorto che alcuni problemi, alcuni temi, alcune sottolineature che 30 anni fa scandalizzavano quando venivano riportate come provocazione che veniva dall'America Latina, ecco, pian piano sono diventate pacifica acquisizione, per cui ho fiducia che anche quelle conflittualità residue che ancora ci sono e sono abbastanza forti, ecco, nella Chiesa, possono essere superate da sintesi ulteriori. Quindi mi sembra, insomma, che è importante. Non è una politica, insomma. No, mi sembra sia importante, anche perché se voi guardate i documenti anche della Chiesa italiana, ecco, e se li rileggete con un po' di attenzione, vi accorgete che quello che scriveva la Commissione per la cooperazione tra le Chiese nel 78, in ordine a quello che dall'America Latina ci viene come dono, ci accorgiamo che tanti doni sono entrati nella pastorale, nella riflessione e anche, mi pare, un po' nella teologia italiana. Grazie. Ti faccio un'altra domanda, forse può apparire un po' difficiletta. Il CEIAL come tale non è una chiesa, ovvio, è uno strumento di collegamento, un canale, io dicevo all'inizio ieri, un anello che ci manterrà uniti, questo convegno sparirà, ci saranno gli atti, ma c'è qualcosa di permanente tra noi e l'America Latina, grazie a Dio. Bene, la mia domanda è questa. Vi pare voi di essere più che solo strumento, servizio, funzione, di essere quasi una specie di miniatura, una chiesa, nel senso di disegnare già con la vostra esperienza non tanto uno strumento, ma un vivere chiesa in maniera, non dico alternativa, ma più aperta a una novità di incontro futuro. Ma non so se mi sono espresso. Sì, penso di aver capito. Perché mi sembra la domanda. Quando ho incontrato voi, incontro voi, mi sembra veramente di entrare in un clima dove vivete già delle cose e date già esemplarità di chiesa. Per esempio quello di saper ascoltare molto, molto, di restare a disposizione senza pretese. Lo ammiro. Mi sembra proprio che sia quasi una chiesa disegnata, non è nella burocrazia, nello strumento che troviamo normalmente questa capacità. Scusa se ti faccio un elogio, da te, all'istituzione. No, a me pare che sia importante forse una premessa che spieghi un po', cioè il CEIAL è una sigla, no? Centro Ecclesiale Italiano America Latina, cioè un gruppo di persone incaricata dalla Conferenza Episcopale Italiana di svolgere un servizio di collegamento per quanto riguarda la cooperazione ecclesiale con l'America Latina, assieme a CEIAS, che è Centro Ecclesiale Italiano Africa e Asia, e ora tutte e due unite in questo centro unitario che ha sede in Verona. Quindi, in pratica, fondamentalmente è un servizio, ma è un servizio alla vita e alla realtà che pulsa nella Chiesa italiana e che pulsa nelle Chiese latinoamericane. Nella Chiesa italiana ci sono centri missionari diocesani presenti in molte diocesi in un modo molto vivo ed efficace, e qui ho piacere essere ospite di Trento perché, ecco, mi pare che sia uno dei centri missionari diocesani più vivi, ecco. Quindi ho piacere salutare Don Iop, che è il direttore del centro missionario diocesano di Trento, perché direi che il nuovo non è tanto il CEIAL cerca di tenerlo aperto, tenere vivi i canali, ma poi il nuovo si fa nelle chiese locali, si fa nelle congregazioni religiose che ricevono il ritorno di un fratello, di una sorella, si fa nel mondo laicale che riceve il ritorno di un laico che ha fatto un'esperienza di coinvolgimento nelle chiese dell'America Latina. E quindi veramente non siamo una istituzione e non sono solo delle idee, ma c'è un vissuto concreto nella tua chiesa di Padova, nella chiesa di Trento, tutte le chiese che hanno dei ritorni dall'America Latina in un modo molto concreto. E qui il nuovo già la nuova Chiesa, non alternativa alla Chiesa, ma diremmo una Chiesa, la Chiesa antica che fiorisce, ecco, mi sembra, proprio per il dono che viene da tanti fratelli. Grazie. L'ultima domanda, ecco, hai già risposto in parte con la precedente. Come vi sentite, che rapporto avete con la Chiesa italiana? Ma in questo momento io vorrei che tu insistessi con la teologia italiana. Sentite, vi sentite ignoranti, isolati, messi a parte? Vi sentite abbastanza compresi? C'è qualche frangia di teologia che vi accoglie, eccetera? Vorreste di più? Mi sembra che nel rispetto del pluralismo teologico, ecco, noi ci rendiamo conto che ci sono tanti che hanno una sensibilità teologica molto diversa e quindi che guardano a quello che è il cammino di certe correnti teologiche latinoamericane con molta diffidenza, quindi rispettiamo, ecco. Però notiamo che c'è nella Chiesa italiana, tra i teologi italiani, tanti teologi, tanti biblisti, tanti moralisti e tanti pastoralisti e storici, no, che guardano con molta attenzione, direi con molta simpatia. A noi sembra che questi siano più vicini a cogliere quello che è il cammino della Chiesa latinoamericana, però rispettiamo anche chi la pensa diversamente e che fa delle letture a volte molto polemiche e anche molto amare, ecco, verso il cammino della Chiesa latinoamericana. Ci auguriamo che, visto quel che è successo in questi 30 anni, che è andato crescendo, mi sembra, ecco, il numero di quelli che sono più vicini, anche se a volte a gridare più forte sono quelli che sono critici, e spero che si possa fare qualche passo avanti ulteriore. Bene, grazie a nome vostro. Però prima di andarmene, ecco, vorrei rapidissimamente ricordarvi di ricercare presso i Verbiti quel numero unico dei Vermu che pubblico una volta all'anno, dove c'è quello studio molto interessante. A me è parso lo studio più interessante sulla Redentoris Missio fatto da Don Luigi. Grazie, ecco, è un servizio secondo me molto bello. Grazie. E invece per quanto riguarda un contributo a quegli stimoli di cui si sentiva il bisogno, no? Ecco, sull'ultimo numero della nostra rivista c'è un articoletto di Luis Alberto Gomez de Sousa, un brasiliano, che a partire un po' dalla realtà latinoamericana cerca di vedere alcuni elementi stimolanti da un punto di vista culturale, sociale, ma avvertite molto anche teologico. Grazie. Grazie. Grazie.